ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. Si avvicina l'introduzione dello standard Euro 7 sulle emissioni. Dopo una prima indagine con aziende e associazioni di categoria, infatti la Commissione Europea ha avviato le consultazioni pubbliche che si concluderanno il prossimo 20 novembre, aperte alla partecipazione di tutti i portatori di interesse. Non è stata ancora fissata una data di entrata in vigore del nuovo standard, ma si stima che il regolamento di introduzione della categoria Euro 7 potrebbe essere approvato entro il 2021. La corsa all'elettrico può costar caro all'industria dell'auto, la mobilità elettrica potrebbe trasformarsi in una profonda crisi del settore capace di portarsi dietro milioni di posti di lavoro. Lo ha sostenuto in una recente intervista il numero uno del gruppo PSA, Carlos Tavares. Le auto elettriche, prodotte ormai da tutti i costruttori, costano molto di più e si vendono molto meno, e questo costringerebbe i brand a dei tagli netti e a delle riduzioni del personale. Nel caso di una transizione troppo veloce, secondo Tavares, in Europa sarebbero ben 14 milioni di posti di lavoro pronti a saltare. Cupra ha dato inizio alla produzione di Formentor, arriverà quindi presto sul mercato, disponibile in una gamma di ben 7 motori, il primo modello sviluppato specificamente per il nuovo brand. Formentor segna l'ingresso del marchio nel segmento dei SUV coupé ad alte prestazioni e rappresenta un elemento chiave dell'espansione internazionale di Cupra. Con il lancio del suo primo modello nativo, il marchio punta infatti a consolidare la propria posizione nei principali mercati europei. Blocco delle auto. Nella precedente puntata avevamo già accennato alla decisione dei territori del bacino padano di rinviare il blocco dell'Euro 4 da ottobre a gennaio. La decisione è stata confermata, ma scattano comunque altre limitazioni antismog. Ascoltiamo la scheda. La crisi innescata dal Covid-19 fa slittare a gennaio le misure antismog nel bacino padano. Sono degli scorsi giorni, infatti, le delibere regionali che rinviano a gennaio 2021 il blocco dei veicoli Euro 4, così da consentire di modulare la mobilità dei cittadini in questo periodo di ridotta capacità del trasporto pubblico. Restano comunque attive altre limitazioni. A partire dal 1 ottobre 2020, oltre a tutti i veicoli Euro 0 diesel, benzina, metano e GPL e Euro 1 diesel già bloccati l'anno scorso, saranno fermi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 anche tutti i veicoli diesel Euro 2. I ciclomotori e i motocicli Euro 0 continueranno a essere bloccati 7 giorni su 7, 24 ore su 24 nei 6 mesi del periodo invernale. Le auto e i veicoli adibiti al trasporto merci diesel Euro 3 saranno invece fermi nei giorni feriali dalle 8 alle 19 nel periodo invernale. E cambiamo argomento, parliamo di leasing. Qualche giorno fa è stata presentata la nuova operazione Why by Evo di BMW. Cerchiamo di fare un po' il punto di questa, ma più in generale anche di altre operazioni legate al leasing, in compagnia del nostro ospite, che è Enrico Mascetti, CEO di BMW Bank. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi. Allora, tra un po' entreremo nel vivo del nuovo pacchetto, di cui tra l'altro stiamo già vedendo anche nelle promozioni alcune semplificazioni, però prima volevo chiederle, questa novità è un cosiddetto leasing operativo, che quindi si differenzia dal leasing finanziario e anche dal noleggio. Possiamo provare a fare un po' una veloce distinzione fra questi tre strumenti? Sì, assolutamente. Diciamo subito che il parallelo più facile da fare è tra il leasing operativo e il noleggio. Tra questi due contratti, la sposto la discussione sull'elemento contrattuale, forse anche più significativo, non c'è una sostanziale differenza, cioè il noleggio è un leasing operativo, le differenze sono veramente molto molto limitate. Quindi stiamo parlando fondamentalmente della stessa cosa. Se invece il paragone si sposta tra il leasing operativo e il leasing finanziario, le differenze sono piuttosto consistenti. Perché un leasing finanziario è un'operazione con la quale un'entità finanziaria genera risorse da dare all'acquirente allo scopo di acquisire il mezzo, cioè di comprarlo alla fine. Poi l'evoluzione dei prodotti finanziari è tale per cui anche con leasing finanziario si consente all'acquirente di restituire il mezzo. Lo abbiamo fatto praticamente non solo noi, tutte le case, elevando il valore finale del mezzo alla fine, quindi con la possibilità di restituzione da parte dell'acquirente. Però è un'operazione che viene fatta al momento di termine del contratto, non viene fatta in modo anticipato. Quindi il leasing finanziario, come ho detto, si preoccupa di fornire mezzi per acquisire il bene, con la possibilità eventualmente di non acquisirlo se il cliente vuole la stessa cosa. E di restituirlo. Esatto, mentre il leasing operativo è già diretto a coloro i quali per intensità di utilizzo del bene o per altre ragioni che sono anche legate alla validità di sostituzione del bene, se vuole trovare un bene che sia tecnologicamente più avanzato o anche soltanto di maggiore gradimento, si rivolge al leasing operativo perché il leasing operativo non prevede la possibilità di acquisto alla fine del contratto. Quindi ho già deciso che il bene lo utilizzerò e lo restituirò. Ed ecco perché è così vicino al noleggio come formula sostanzialmente. Ecco, voi avete già un prodotto, il YBuy, che è un leasing finanziario, adesso arrivate con questo YBuy Evo, che è appunto un leasing operativo. Qual è il target di riferimento rispetto al precedente? Ma noi abbiamo fatto, naturalmente, prima di lanciarci in questa ipotesi di lavoro, abbiamo fatto delle ricerche di mercato e abbiamo valutato che ormai esiste una fetta crescente di clientela, sottolineo il fatto che si tratta fondamentalmente di una fetta di clientela e non è rappresentativa del totale mercato, ma questa fetta di clientela ricerca sempre di più soluzioni che garantiscano flessibilità e riducano un po' l'incertezza. È facile capire che in questi momenti l'incertezza è un elemento preso in grande considerazione da tutti i potenziali clienti, i quali prima di mettersi in un'avventura che è l'acquisto dell'auto con tutto quello che comporta dicono sì, vabbè, ma vorrei cercare anche di avere la possibilità di uscirne in un determinato momento. Allora, l'incertezza è l'elemento fondamentale. Riusciamo a vincere l'incertezza dicendo al cliente: caro cliente, tu puoi entrare in possesso, non in proprietà, ma in possesso del bene, quindi utilizzarlo, e se alla fine lo decidi di restituire, questo è già implicito nel contratto, quindi lo utilizzi, punto e basta. Il vantaggio grande rispetto a una soluzione che poteva essere quella precedente del YBuy legato al leasing finanziario è che abbiamo specializzato tutta la costruzione del prodotto proprio in funzione del semplice utilizzo del bene, consentendo al cliente di avere una struttura di servizi che è tarato sulle esigenze che ha il cliente, ma anche sull'effettivo utilizzo legato a chilometri e a una certa durata. Ecco, proprio quindi, a proposito di questo, voi avete differenziato l'offerta, avete tre pacchetti, tanto per essere proprio chiari e precisi, quindi il Silver, il Gold e il Platinum. Come si differenziano questi pacchetti? Questi pacchetti sono fatti in modo che l'intensità di servizio sia via via crescente. Lo abbiamo strutturato con un processo che ha coinvolto naturalmente la rete dei concessionari che hanno esperienza in questo campo, ma anche la nostra esperienza che ormai nella gestione dei servizi, nella rete dei servizi al cliente è ormai ventennale. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo consolidato tutto questo bagaglio di informazioni e abbiamo visto che la sensibilità da parte del cliente ad alcuni servizi è più forte di altri. Nel contempo però quello che abbiamo fatto, l'esercizio importante che abbiamo fatto, è che rispetto a una formula di noleggio noi abbiamo contenuto i servizi a un livello tale per cui sono i servizi effettivamente utili per un certo tipo di clientela. E qual è questo tipo di clientela? Sono fondamentalmente i clienti individui, che quando l'individuo è il cliente privato oppure l'azienda che acquista una macchina oppure il professionista non fa differenza, però ci differenziamo con il fatto che la nostra offerta non copre un servizio flotte, perché la flotta ha un'esigenza totalmente diversa. Completamente diversa, chiaro. Quindi un target ben definito, 3 pacchetti ed è un'offerta che è valida su tutti i modelli BMW o ci sono delle specificità? No, è vale per tutti i modelli BMW. Attualmente siamo usciti con un advertising piuttosto intenso che riguarda 2 modelli in particolare in televisione con la X5, con una rata mensile di tutto rispetto, e su base web usciremo presto anche con la serie 5, anche lì con una rata di tutto rispetto. Tengo a ribadire che dico rata di tutto rispetto perché non posso sostenere che le nostre rate siano le migliori del mercato, sarebbe assurdo perché nessuno è in grado di determinarlo, però ritengo che alla luce di quello che abbiamo fatto e con l'eliminazione di servizi che per il cliente individuale non sono importanti, noi abbiamo ottenuto un risultato importante che è quello di ridurre la rata all'essenziale, all'essenziale che è vitale per il cliente, sempre con la possibilità di dargli una crescita, se vuole ancora più servizi può averli. Certo. Però non entriamo mai in competizione con il noleggio perché quello riguarda un mondo che noi non vogliamo affrontare, che è quello delle flotte. Certo. Bene, termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Enrico Mascetti, CEO di BMW Bank. Ci risentiamo tra pochi minuti, parleremo di concessionari, di dealers, con il presidente di Federauto, Adolfo De Stefani Cosentino, ma parleremo anche di Mercedes. Abbiamo provato per voi la GLE 350D, la plug-in hybrid diesel e elettrica, e ascolterete com'è andata. A tra poco. Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di 2 di denari con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAPP, in qualità di organismo intermedio del Pons PAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, cerchiamo di fare un po' il punto sul mercato italiano dell'auto e lo facciamo in compagnia del presidente di Federauto, che è l'associazione che raggruppa i concessionari italiani, Adolfo De Stefani Cosentino. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Grazie. Allora, un mercato sulle montagne russe, prima sono arrivati gli incentivi e il mercato si è ripreso, poi gli incentivi per una fascia, e ne abbiamo parlato abbondantemente nel corso delle precedenti nostre trasmissioni, sono terminati, c'è una richiesta, quella che arriva da Federauto e da Unrae, di in qualche modo spalmare gli altri incentivi su tutto il provvedimento in modo da consentire comunque un ricambio del parco. Qual è la situazione al momento? Dunque, la situazione al momento, innanzitutto oserei dire che dopo tanto buio cominciavamo un po' a vedere la luce, e quindi questo ci fa piacere, perché significa che è effettivamente vero, la persona desidera girare in questo momento, desidera girare nella propria autovettura piuttosto che girare in un mezzo pubblico, ma non perché i mezzi pubblici siano buoni o cattivi, solo per una questione di sicurezza, ovvero di insicurezza più precisamente dell'utilizzatore. Detto questo, non pensavamo neanche che si potesse riprendere tanto il mercato. Aggiungo una cosa però importantissima, che gli incentivi che sono stati dati, l'automotive li ha restituiti abbondantemente, perché le maggiori immatricolazioni che sono state fatte dai privati compensano come gettito di IVA un gettito molto superiore a quelli che sono stati gli incentivi emessi. Quindi fondamentalmente gli incentivi hanno anche questo senso di poter dare sviluppo all'economia, non erodere come assistenzialismo soldi all'erario, che purtroppo ne ha pochi, ma addirittura di restituirli sempre. Ecco perché noi diciamo andiamo ancora avanti con gli incentivi per cercare di fare in modo di recuperare parzialmente questo mercato, che ad agosto era un meno 500.000, quindi è tanta roba. Certo. Come sta andando questo mercato? Ecco, epuriamo il dibattito dal tema incentivi, che ovviamente sono come un macigno sull'andamento delle cifre e delle vendite, ma quali sono i prodotti che in questo momento stanno tirando di più? Allora, un esempio classico, il premium, quindi l'alto di gamma, ha subito molto molto molto meno diciamo l'influenza negativa del diciamo del coronavirus rispetto alle altre autovetture. Questa è la prima cosa. È vero che il mercato dell'elettrico e del plug-in sta prendendo sempre più piede, ma stiamo parlando sì di percentuali di crescita altissime, ma di percentuali di mercato bassissime, perché stiamo parlando di ben poca roba. Solo l'elettrico fa il 3%, quindi l'altro 97% vuol dire che si sta rivolgendo da un'altra parte. Questi sono gli orientamenti. Le case automobilistiche si stanno veramente svenando, parlo come contribuzione per da dare nelle campagne eccetera eccetera, per cercare di incentivare quanto più possibile il mercato. Le case automobilistiche a loro volta hanno anche dei loro vincoli con l'Europa per quanto riguarda l'emissione del CO2, quindi questo è in questo strano canale si sta muovendo il mercato, che però direi che reagisce meglio di quanto chiunque potesse pensare. Lei ha appena sostenuto che le auto del segmento premium non hanno subito dei contraccolpi pesanti da questa crisi, e allora noi ne abbiamo provata una, abbiamo provato per voi la nuova Mercedes GLE 350D plug-in hybrid. Si tratta di un ibrido diesel e elettrico, una novità praticamente per il mercato delle auto. Ascoltiamo com'è andata. Nella vera e propria corsa all'elettrificazione che ha caratterizzato gli scorsi mesi, abbiamo visto tanti modelli e tante combinazioni di motori endotermici ed elettrici. Mercedes si lancia in un territorio finora inesplorato, e cioè quello dell'incrocio tra un motore diesel e un motore elettrico. Lo fa con questa GLE 350DE plug-in hybrid. Il motore endotermico è un 4 cilindri a gasolio da 194 cavalli abbinato a un motore elettrico alimentato da batterie agli ioni di litio da 32 kWh. La potenza complessiva per il combinato tra i due propulsori equivale a 320 cavalli, che permettono un'accelerazione da 0 a 100 in 6,8 secondi. Ma perché un motore diesel dovrebbe essere più efficiente nell'accoppiata con uno elettrico? Lo chiediamo a Eugenio Blasetti, responsabile comunicazione di Mercedes Italia. Ma i motivi sono fondamentalmente due, perché i motori diesel, e in particolare i nuovi diesel, hanno tanta coppia e consumano molto molto poco. E queste sono le caratteristiche migliori anche per accoppiarsi con un motore elettrico e soprattutto con le batterie, perché in questo caso gestisce in maniera molto tranquilla anche la ricarica della batteria. Quindi quando tu stai viaggiando anche col motore endotermico, magari la batteria scarica, quasi non se ne accorge, quindi l'incremento di consumo della ricarica della batteria è praticamente nullo. Il sistema di ricarica plug-in consente di viaggiare in modalità elettrica per oltre 100 km, risultato unico nella categoria. La batteria si ricarica in circa 14 ore da presa domestica, che possono diventare addirittura solo 20 minuti da una colonnina fast charge. L'alloggiamento delle batterie nell'asse posteriore appositamente modificato non sottrae spazio al bagagliaio, che resta molto capiente. E la capienza e il comfort sono elementi distintivi anche degli interni. 5 persone viaggiano comode e si possono anche aggiungere 2 posti a scomparsa nel baule. La qualità degli interni sfoggia diversi particolari, tra cui la plancia massiccia con i suoi 2 schermi affiancati da più di 12 pollici ciascuno. Il display centrale è destinato al sistema multimediale, che può anche includere la realtà virtuale. Sul tunnel centrale, il pannello di controllo del sistema di infotainment e anche il comando per sollevare e abbassare la vettura in modo manuale. E rientriamo in studio. Vi ricordo che sul sito di Radio 24, all'indirizzo www.radio24.it, nella scheda dedicata al nostro programma Strade e Motori, è possibile anche vedere la prova video della nuova GLE 350DE, quindi apprezzare anche le immagini di questa nuova auto. Ritorniamo con il nostro ospite Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto. Ecco, presidente, parliamo proprio di concessionarie. Hanno vissuto sicuramente un momento difficile, sono state prima chiuse, poi riaperte, adesso stanno rispondendo alle nuove esigenze del mercato. Come stanno reagendo a tutti questi cambiamenti e soprattutto è vero quanto sostiene qualche casa costruttrice, cioè che questa è una rete che ha bisogno di un profondo cambiamento? Più che di, io non sono d'accordo con le case automobilistiche quando parlano di riorganizzazione della rete, forse è una riorganizzazione del metodo di vendita, che è tutta un'altra cosa. Cioè, secondo me la rete attuale dei concessionari, e non perché io li rappresento, ma forse rappresentano il meglio del meglio che abbiamo avuto negli ultimi 40 anni, perché la grande crisi che c'è stata 10 anni fa ci ha portato da 2700 a 1350 e quelli che sono sopravvissuti erano certamente i più, chiamiamoli robusti, i più organizzati, ovvero i più preparati dal punto di vista dei processi, delle procedure, dell'organizzazione, delle tecniche di vendita, della vendita online o tramite online più precisamente. Quindi io non sono convinto che la rete debba subire un'ulteriore variazione, anche se è probabile che qualche ulteriore aggregazione, quindi qualche altra, diciamo, riunificazione di grosse aziende ci possa ancora avvenire. Come ha reagito invece questa rete che, come ha sottolineato lei, era già stata provata dalla crisi di 10 anni fa a questa nuova crisi? Beh, oserei dire certamente con grande grinta, con grande spinta e cercando di utilizzare tutti quelli che possono essere stati anche gli ammortizzatori sociali che naturalmente lo Stato ha messo a disposizione di tutte le aziende, non le nostre. Quindi questo è stato il primo aspetto. C'è stato un discreto aiuto da parte delle case automobilistiche, perché se è vero che le case automobilistiche dicono che bisognerebbe riorganizzare, è anche vero che le case automobilistiche dicono che hanno bisogno della propria rete e quindi, sapendo che eventualmente poteva saltare, si parlava di più della metà della rete, bisognava per forza trovare delle soluzioni di aiuto. Quindi fra gli aiuti delle case mandanti e l'aiuto dello Stato e soprattutto il rimboccarsi le maniche da parte delle concessionarie, quello che io temevo di una default molto molto molto molto alto da parte del numero dei concessionari, oggi come oggi lo vedo molto molto più remoto. Sempre qualcuno, può darsi che ci stia male, perché non è che non ho la pretesa di conoscere tutti i 1400, però credo che stiano reagendo bene, riguardando ancora i processi, le procedure. Naturalmente abbiamo affinato ancora di più il contatto col cliente online, che è forse la cosa più, diciamo, la vera novità di questo momento. Non significa vendere online. Ecco, proprio a proposito di questo, le volevo dire, qualche giorno fa è uscito uno studio in cui si diceva che praticamente c'era una forte propensione all'acquisto online da parte degli italiani, addirittura, se non sbaglio, quasi 4 su 10. Come vede lei questa ipotesi? Allora, guardi, le parlo da italiano, anch'io compro molto online, ma attenzione, i beni di consumo, un bene durevole, un immobile, lei non lo compra online, lo vede online, lo cerca online, lo trova online, ma poi dopo lo deve andare a vedere fisicamente, deve avere per forza una relazione con il venditore. E se lei pensa che l'autovettura dopo l'acquisto dell'immobile è l'acquisto più importante per le famiglie italiane, lei comprende che difficilmente uno compra con una transazione completa online. Ecco, poi aggiungiamo un'ultima cosa che è importantissima: quando io mi compro una birra piuttosto che un paio di scarpe da trekking online, non do un permuto alle mie scarpe o alla mia vecchia birra, qui invece c'è anche la permuta, quindi ancora la relazione con il venditore c'è. Cos'è diventato importante? È diventato importante il fatto di essere online, essere, diciamo, attrarre il cliente, farsi vedere, quindi dare informazioni, ovviamente. Esatto, dare informazioni tale per cui il cliente possa essere incuriosito ad andare da Giovanni piuttosto che da Giuseppe a cercare la macchina. Certo, siamo in chiusura. Un'ultima battuta la vorrei fare con lei sul mercato dell'usato. Qualcuno vede in questo mercato una ulteriore possibilità di svecchiare il vecchio parco auto italiano, uno dei più vecchi d'Europa, tra l'altro. Come vedete voi questa ipotesi? Allora, certamente se noi non svecchiamo il nostro vecchio parco, e sto parlando di quei 22 milioni di autovetture che sono Euro 4, 3, 2, 1 e 0 su 39 milioni di circolante, noi è inutile che parliamo di ecologia, parliamo di pulizia, perché una macchina vecchia già oggi come oggi inquina 10, 15, 20 volte più di una normale macchina endotermica, quindi benzina o diesel, appena immatricolata. Quindi noi dobbiamo fare un qualcosa di differente rispetto agli altri paesi. Noi dobbiamo cercare di togliere il vecchio e metterlo con qualcosa di, chiamiamolo meno vecchio, un po' più giovane. Ecco perché potrebbe essere quello l'incentivo giusto, con naturalmente un concetto di fiscalità che andrebbe tutto rivisto, ma che non posso esporre qui perché sarebbe troppo lungo. Ne riparleremo sicuramente. Adesso il dibattito è sugli incentivi. Quando termineranno questi incentivi, sicuramente ritorneremo ad occuparci a livello nazionale anche di questo tipo di mercato, quello dell'usato. Termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto. L'appuntamento con Strade e Motori torna, come al solito, sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.